GR Sport. Buongiorno a tutti da Carlo Genta, un buon primo tempo di personalità e orgoglio, una ripresa di sola resistenza fino al 77esimo quando John Terry di testa infila la porta di Doni su azione di calcio d'angolo. La Roma esce sconfitta di misura da Stamford Bridge, casa del Chelsea, ma con segnali di ripresa, incoraggiante per esempio la partita di Francesco Totti. Ma sentiamo le impressioni di Luciano Spalletti. Dispiace perché i ragazzi si sono impegnati molto, hanno giocato una buona partita, attenta, continua, dove non hanno concesso niente al Chelsea e dove probabilmente in due o tre occasioni siamo ripartiti molto bene, abbiamo gestito anche molto bene, ecco, potevamo creare poi l'opportunità per prenderci il vantaggio. Bisogna accettarlo, però dobbiamo essere poi abbastanza lucidi da poter valutare che questa è la strada corretta da seguire. Nel gruppo della Roma il Cluj perde 1-0 a Bordeaux e ora in classifica Chelsea 7 punti, i rumeni 4, Roma e Bordeaux 3 punti. Veniamo ora all'Inter. Con i ciprioti della Nortosis era una sorprendente sfida di testa del gruppo B. Decide il gol di Adriano. Servizio. Le buone notizie per l'Inter, per cominciare, la vittoria contro la Nortosis, l'ottava nelle prime 11 partite della stagione, lancia i nerazzurri da soli in testa alla classifica del girone con più di un piede negli ottavi di finale. Una vittoria firmata da Adriano con un colpo di testa di misura al 44esimo del primo tempo, 1-0 senza ripetere la scintillante prestazione dell'Olimpico, ma anche rischiando il meno possibile, concedendo ai ciprioti sulle conclusioni in porta con Dellas e Katsavakis. Per il resto Toldo disoccupato e Inter che un po' ha controllato, un po' ha cercato di forzare i tempi, sprecando però più del lecito. Muntari due volte, Adriano e Stankovic dal limite e soprattutto Ibrahimovic non hanno trovato la strada del 2-0. In archivio va dunque una vittoria ottenuta con il minimo sforzo. Mourinho prosegue nel suo progetto con idee quanto mai chiare anche ieri sera. Spazio nell'11 titolare per Zanetti, Maicon, Cambiasso e Ibrahimovic. Per il turnover c'è tempo. Giovanni Capuano, GR 24, Il Sole 24 Ore. E ora nel gruppo B di Champions League, Inter 7 punti a Nortosis 4 e poi il 2-2 tra Panathinaikos e Werder Brema con i tedeschi che salgono a 3 punti, i greci hanno un punto. Negli altri gironi di Champions il Barcellona dilaga a Basilea 5-0 dopo il gol in apertura di Messi, lo Sporting Lisbona espugna Donetsk e ipoteca il secondo posto, 1-1 tra Atletico Madrid e Liverpool che continuano appaiate a 7 punti la corsa in testa al girone D, mentre il PSV Eindhoven batte 2-0 il Marsiglia. Ma cambiamo argomento perché ieri è cominciato anche il tempo dell'Eurolega, cioè la Champions League del basket. Debutto con sconfitta larga quanto prevedibile per l'Armani Milano sul campo del CSKA Mosca, campione d'Europa. Armani mai in partita, 49-27 all'intervallo e alla fine è 90-64 per l'armata di Ettore Messina. A rimettere il bilancio in parità nella prima serata europea la solita Siena che ha battuto con qualche affanno di troppo i polacchi del Procom 80-71. Infine è stato presentato ieri a Parigi il Tour de France 2009 che scatterà il 4 luglio da Monte Carlo con un impegnativo cronometro di 15 km. Molte le novità della 96esima edizione, torna ad esempio dopo 6 anni la scalata al Mont Ventoux, fissata per il penultimo giorno prima dell'arrivo sui Campi Elisi di Parigi in programma il 26 di luglio. Ed è tutto per GR Sport di questa mattina, di nuovo buona giornata.